Salve a tutti gli ascoltatori e benvenuti alla puntata numero 20 di A Tavola con Fabiola. Questa è Radio Big World e io sono Fabiola. La ricetta di oggi è uova ripiene ai funghi. Ingredienti per 4 persone: 400 g di funghi porcini, 8 uova, 5 cucchiai di olio extravergine, una piccola cipolla, sale e pepe quanto basta. Ingredienti per la maionese: un uovo, 1 decilitro di olio di girasole, un cucchiaio di aceto bianco, sale quanto basta. Preparazione: prepariamo la maionese. Rompete l'uovo in una terrina e incorporatevi, battendo con una frusta, l'olio a goccia a goccia. Quando la preparazione sarà ben gonfia, unite e senza smettere di battere l'aceto e aggiungete, se vi aggrada, un po' di dragoncello tritato, mescolando delicatamente con un cucchiaio di legno. Mettete quindi la maionese in frigo e fate riposare fino al momento di servire. Preparazione per le uova: mettete le uova in una casseruola, coperte con acqua fredda. Portate ad ebollizione e fate cuocere per 8 minuti. Raffreddatele subito e sgusciatele. Con un coltellino tagliate le punte e conservatele a parte. Tagliate leggermente anche la base per far stare dritte le uova. Molto delicatamente togliete il tuorlo senza rompere il bianco. Mettete i tuorli in una terrina e sbriciolateli con una forchetta. Tagliate grossolanamente la cipolla e salateli. In una casseruola mettete il trito ottenuto con l'olio e fate cuocere per 30 minuti. Fatele intiepidire e con una paletta togliete i funghi e la cipolla, conservando però il fondo di cottura. Passate i funghi e la cipolla al setaccio e uniteli ai tuorli sbriciolati. Incorporate il fondo di cottura, salate, pepate e mescolate bene. Distribuite il composto ottenuto all'interno delle uova e coprite con le punte tagliate. Mettete dunque le uova sul piatto di portata e servite con la maionese. I vini consigliati sono Soave Classico del Veneto, servito a 11 gradi, Tokaj del Coglio del Friuli Venezia Giulia, servito a 11 gradi. Buon appetito! Questa era la ricetta numero 20. Io sono Fabiola, questa è Radio Big World e vi do appuntamento alla prossima ricetta.